così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù pure una lacrima. Ci ripenso come se fosse la fine.